Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Sono a Brescia, sono davanti al Campidoglio, ciò che resta della colossale edificio fatto costruire da Vespasiano nell'allora Brixia romana. Qui, tra le rovine di questo tempio, al principio dell'Ottocento venne fatta una scoperta davvero clamorosa. In una intercapedine, quindi in un nascondiglio, saltarono fuori una quantità notevolissima di bronzi un po' accartocciati. Si trattava di statue, di teste, si trattava di modanature per le architetture, insomma si trattava di un vero e proprio tesoro nascosto volutamente nel periodo in cui l'impero aveva perso la possibilità di estrarre metalli e il bronzo erano preziosissimi, per cui si nascondevano. Ma insieme a questi metalli è saltata fuori la statua più importante romana che si trova nel nord Italia, la famosa Vittoria Alata di Brescia. Questa statua tra poco verrà ricollocata in una situazione particolarmente spettacolare, cioè proprio nel Campidoglio, nel posto dove è stata trovata. Ora è ancora l'opificio delle pietre dure, ma tra pochi giorni ritornerà a Brescia, e in questa occasione è stata studiata molto bene e si sono capite una serie di cose piuttosto importanti. Beh, intanto che le famose ali che stanno alle spalle della statua non furono aggiunte in un secondo momento, lo si è capito perché i ganci dove sono agganciate le ali sono nella stessa fusione delle spalle della statua, quindi la statua fu concepita davvero come la figura di una donna, di un Afrodite, che scriveva su uno scudo la parola Nike, la parola vittoria, quindi una delle tante statue realizzate dai romani in occasione di grandi vittorie. Probabilmente risale all'età tra Claudio e Vespasiano. Quello che non si è ancora capito a quale vittoria faccia riferimento, ma questo a noi non importa, noi importerà vedere l'allestimento nuovo all'interno del Campidoglio e lasciare qualche interrogativo per gli studiosi del futuro.